Buonasera a tutti, mi sembra fosse ottobre del 2005 quando ci siamo visti in questa stessa biblioteca a presentare il precedente romanzo di Giacomo Sartori. Sono passati 3 anni e nel frattempo è arrivato un nuovo romanzo. Ecco, sin dal libro di esordio, un volume di racconti intitolato Di solito mi telefona il giorno prima, la scrittura di Giacomo Sartori e si è caratterizzata per la marcata tendenza all'introspezione, mettendo in scena, in quel caso, 4 storie di donne, ma soprattutto raccontando i loro desideri e le loro fantasie. L'introspezione è diventata una vera e propria indagine psichica nel romanzo Tritolo, che è un romanzo che prende spunto dal caso del meranese Ferdinand Gamper, che nel 1996 terrorizzò l'Alto Adige sparando e uccidendo alcune coppie di lingua italiana. Non è propriamente quella la storia raccontata, ma comunque l'ispirazione nasce da lì ed è soprattutto il ritratto psichico di un giovane borderline. E più che un'analisi sociologica o storico-politica di una terra, è appunto un libro che descrive e analizza le relazioni tra le persone e le dinamiche psichiche. Il libro che abbiamo presentato appunto 3 anni fa è il romanzo Anatomia della battaglia, in cui c'è sicuramente un incontro con la storia. Però la dimensione interiore è altrettanto forte. In quel romanzo si raccontava, un figlio raccontava la lenta agonia di un padre che non accettava di rassegnarsi alla malattia, all'idea della morte, ma il libro era soprattutto la storia conflittuale tra un padre che aveva aderito quasi naturalmente al fascismo, però con un'adesione più che altro, mi verrebbe da dire, psicologica, e un figlio che per reazione invece diventa negli anni 70 un estremista di sinistra a contatto col terrorismo. E anche in quel caso le motivazioni non sono solo motivazioni politiche, ma motivazioni psicologiche, perché il figlio in un certo senso reagisce alla personalità autoritaria del padre. È un padre che nell'educazione del figlio non ha mai sopportato i cedimenti e le fragilità. Il nuovo romanzo, Sacrificio, devo forse dire per chi non conosce Giacomo Sartori è uno scrittore trentino, sebbene viva a Parigi. Dico questo perché il romanzo, sia Anatomia della battaglia che Sacrificio, è ambientato in Trentino, quindi racconta, diciamo, questo territorio in un modo, però vorrei dire, particolare, perché non è il Trentino patinato, non è il Trentino dei plan turistici, ma è il ritratto di un gruppo di ventenni che sprecano la loro esistenza annoiandosi al pub oppure impasticcandosi in discoteca. Il romanzo ha inizio con un episodio molto particolare, una notte di pioggia, il fiume in piena, questo gruppo di amici distribuite su 2 fuoristrada decidono di fare una cosa, diciamo, insensata eppure evidentemente eccitante, di attraversare il fiume in piena, in particolare istigati da una ragazza che potremmo definire come l'anima nera del gruppo. Il primo fuoristrada passa, il secondo si capovolge e uno dei ragazzi a bordo del fuoristrada muore annegato. Ed era stata appunto Katia, una ragazza che presto vediamo che si rivela piuttosto isterica e ricattatoria, ad avere stimolato uno dei 2 autisti del gruppo, cioè Diego, che di mestiere fa il guardaparco e perdutamente innamorato di Katia, di cui è psicologicamente succube, e quindi già da subito è un romanzo costruito sulle relazioni tra i personaggi. Mi sembra di poter dire che ci sono soprattutto 2 gruppi, un gruppo a cui appartengono Diego e Marta, che sono forse quelli più fragili e più facilmente potremmo indicare come vittime, e un gruppo invece, l'altra polarità, sono invece Katia e Frank, o Frank, non so se va pronunciato italianizzato o inglesizzato, che invece sono due personaggi che rivelano una carica piuttosto violenta. A un certo punto, dopo la tragedia, che suscita in tutti naturalmente dolore fino all'autolesionismo, vogliono elaborare questo dolore della perdita dell'amico e decidono di organizzare una serata in una baita in montagna. Dovrebbe essere una festa. In realtà tutta la serata si traduce in una sorta di stordimento collettivo a base di alcol di vari stupefacenti. Ecco, vorrei dire che in questo ritratto di una gioventù senza valori, senza ideali, che in preda alla noia più totale conduce una vita che sfocia nella tragedia, ecco, Giacomo Sartori non dà giudizi, non corre il rischio di cadere nel moralismo, ma mette in scena i personaggi, noi li vediamo agire, il lettore si forma la propria opinione. Potremmo dire che anche in questo caso si tratta di un ritratto di un ambiente. L'ambiente è una vallata secondaria, piuttosto umida e depressa del Trentino, un ritratto sicuramente antituristico, molto, molto psicologico, dove dietro la pace dei boschi, la bellezza del paesaggio, i gerani alle finestre, in realtà si nasconde un'umanità pronta ad esplodere sotto l'urto della noia, della mancanza di sogni, della mancanza di ideali, e ne viene fuori un romanzo che, giustamente, in un'epoca in cui ogni libro deve essere definito un noir, è stato definito una tragedia, che è una patente molto più nobile, secondo me. Ecco, io vorrei cominciare a chiedere a Giacomo Sartori di parlarci di questo libro, proprio a partire dall'idea di come è nato. So che in qualche modo ti sei ispirato a un fatto realmente, realmente accaduto. Posso invertire l'ordine? Sì. Leggendo un passo prima di risponderti. Certo. Nel senso che poi un libro è una scrittura, no? Quello che ci prende in un libro, che ci piace o non ci piace, la frase, e per dare un po' l'idea di cosa parliamo, credo che sia... Forse potrebbe leggere l'incipit. L'incipit? No, ma lì... No, ho scelto un altro passo. Però, io non sono soltanto un bravo lettore, come diceva la mia compagna di banco al liceo classico, mi diceva, ma tu leggi malissimo, non sono molto migliorato, però che anche quello, sentir leggere gli autori, anche quello è una cosa interessante, sì. Ecco, come leggono loro le proprie cose, quindi leggo solo questa paginetta, poi rispondo adesso, se non di un... Lei odia gli strilli acuti dei maiali che hanno capito che verranno sgozzati. Odia il puzzo dolciastro delle setole e della cotenna che esala dall'enorme paiolo di rame sopra le lingue azzurre del gas. Quel fetore vomitevole che ti entra nei polmoni e ti impregna i capelli e la pelle. Odia l'odore metallico del sangue. Odia il rumore dell'accetta che penetra nella carne e alla fine incontra l'osso. Odia il rumore umido dei muscoli che vengono inghiottiti dal tritacarne. Odia lo sciaguattio del latte contro i tessuti ridotti a poltiglia. Odia l'odore dell'aglio messo in infusione nel vino rosso. Odia la consistenza grassa delle budella che si gonfieranno dell'impasto viscido. Odia le lunghe pertiche che la fanno pensare alle file di croci di un cimitero militare alle quali sono appesi i salami. È da quando è bambina che il suo stomaco riconosce nell'odore degli insaccati l'odore del povero maiale ustionato dall'acqua bollente. Si rivolta con un colpo solo, come si svuota nella spazzatura un sacchetto di plastica pieno di schifezze. Anche solo il nome la fa star male. Pure quest'anno ha però accettato di aiutare lo zio a fare i salami, perché non sa dire di no, perché le sembra di doverglielo. L'aiuta e sta male. Gli effluvi l'hanno presa fin dal primo momento alla gola e hanno invertito il senso di transito nel suo esofago. Quando non ne può più, va al gabinetto e vomita. Non ha mangiato nulla, eppure vomita. Ben sapendo che la nausea non passerà quando appenderanno i salami nella dispensa e in cortile laveranno gli attrezzi. Per vari giorni non potrà liberarsi del sentore dolce del sangue amalgamato con quello acido dei rigurgiti. Continuerà a lavarsi e a rilavarsi, ma se lo sentirà attaccato alla pelle e ai capelli, mischiato al suo stesso fiato. Ecco, questo è un passo particolarmente truculento, no? Non è tutto così il libro, non è tutto assolutamente, però è per dare un'idea della scrittura. E per rispondere a Giovanni, niente, questo è il famoso delitto di Terlago del 2001, Terlago, paese a 10 km da Trento, e in realtà la vicenda che è sullo sfondo del libro è la vicenda realissima, vicenda molto molto molto molto dura, dove una moglie uccide praticamente a bastonate il marito, una moglie, tutti personaggi tra i 22 e i 24 anni, con l'amante, semplicemente per sbarazzarsi del marito invece di una normalissima separazione, probabilmente perché questa ragazza aveva, come dire, non aveva il coraggio di dire al padre che l'aveva aiutato tra il resto a comprare un appartamento, non aveva il coraggio di dire 6 mesi dopo il matrimonio, no, mi sono accorto che in realtà voglio bene un altro, e hanno pensato bene di ammazzarlo a bastonate. Quindi un fatto, adesso lo rido, però in realtà è una cosa molto, molto brutta e molto, molto, molto tragica, no? E poi come succede spesso per i miei testi, io parto da un fatto reale, poi inserendo dei personaggi immaginari, e la ragazza che racconta la storia appunto è assolutamente l'ho creata io. Però appunto, ecco, in realtà non si sa mai perché viene l'ispirazione di scrivere un libro, come tutto il resto nella vita, non è che le cose, come che ti viene un'idea e comincia a crescere in te e diventa quasi un'ossessione, e a un certo punto ti rendi conto che devi scrivere il libro, però non è assolutamente una decisione né razionale né fredda, non è quel fatto lì si presta bene alla mia, no, una cosa che ti colpisce, come colpisce tutti questi fatti, come non so, il delitto da Franzoni, cose sono cose che effettivamente colpiscono qualche cosa in noi, che è anche difficile dire che cosa, cioè che caso per caso è diverso, però ecco, e lì da questo fatto reale è nato il libro, non subito, perché appunto mi sono messo a scriverlo anni dopo. In realtà nella mia scrittura non è neanche l'analisi psicologica in sé, quello che mi interessa è proprio entrare nella pelle dei personaggi. Questo probabilmente è una cosa che mi piace fare nella vita, no? Cioè che faccio tanto, che ho sempre fatto fin da bambino, poi mi sono reso conto che non tutti fanno questo, no? Non tutti lo fanno con la stessa acuità, e mi sono reso conto che più, come dire, l'analisi psicologica è sempre un qualche cosa da fuori che cerca delle giustificazioni all'agire umano, no? Mentre quello che interessa a me è l'agire umano brutto, quello che succede, le contraddizioni, i pensieri, no? E proprio perché penso un po' alla mia idea della narrativa, della letteratura, la letteratura per me deve insegnare qualche cosa. Io ho sempre letto tanto, sempre stato un lettore appassionato, proprio per imparare, non so come dire, per leggere le cose che non sono scritte da nessun'altra parte, perché ci piace un libro, perché ci fa entrare in un mondo che è un qualche cosa di nuovo per noi, e quindi ci incolla la pagina perché è un qualche cosa che vogliamo conoscere di più, vogliamo continuare a conoscere, ecco. E quindi però appunto il punto di partenza è sempre entrare nel come dire, in un personaggio, cercare di viverlo dall'interno. Spesso appunto, come in questo caso, c'è un delitto, però non è assolutamente l'aspetto come dire, dell'indagine legata al delitto che mi interessa, quanto proprio l'ambiente. Anche qui io non è che ormai, poi c'è la mia età, sono molto lontanissimo, sono molto lontano da questi giovani che descrivo, però lo stesso io cerco di mettermi nella loro nella loro pelle. Ecco, hai parlato di letteratura, allora appunto hai già detto che non c'è un'indagine, anche perché si sa come è avvenuto, non è stato un omicidio, è stata una morte stupida, una sfida verso qualcosa apparentemente di insensato. Che tipo di letteratura avevi in mente quando hai pensato a questa storia? Appunto dicevo che oggi quando si presenta un libro in cui c'è un morto, un omicidio, deve essere un giallo, deve essere un noir, deve essere un'indagine, perché il lettore deve stare incollato, tutta la tiritera che la lettera, che le case editrici vogliono, perché questo è quello che i lettori a loro volta vogliono. Tu invece hai seguito un'altra strada. Ti rispondo subito, però le prime cose che hai detto, in realtà i delitti sono sempre molto più misteriosi. In realtà anche in questo caso non si sa chi l'ha ammazzato, questo povero ragazzo, il marito, diciamo. Sì, non, il delitto non, finale, io parlavo del morto iniziale, quello dell'incidente. Nei tribunali si ricostruisce in realtà un qualche cosa che non è stata la realtà, un qualcosa di scarsamente verosimigliante, no? Che cerca di stare in piedi, però ecco, questo per quanto riguarda il delitto, e per quanto riguarda la scena iniziale, l'attraversamento del fiume, questa è una scena realissima che è successa negli anni 80 in Val Rendena, dei ragazzi che per gioco, un po' briacchi, una notte hanno attraversato il Brenta, e io in realtà non so neanche, ho un ricordo molto vago di questa vicenda, non sono neanche andato a ricostruire, non sono andato a cercare i giornali, proprio perché non mi interessavano, l'ho riscritta io anche questo come la sentivo io, quindi non mi ricordo se era un morto o due morti, però anche questa è una vicenda reale, no? Che io dopo fuso a quell'altra, e ecco, per risponderti, ecco, io non ho assolutamente, io sono un pessimo lettore di gialli, no? Poi il giallo, dire la verità, io lo dico con umiltà, nel senso che non ma in realtà il giallo in generale mi annoia tremendamente, no? A parte no, i grossi, no, Chandler, i grossi, però a dire la verità poi mi dimentico anche di avere gli elementi, non riesco a starci dietro, però conosco tantissime persone che sono lettori appassionati e leggono gialli, quindi non voglio dire, non è assolutamente un giudizio di merito ma proprio perché il giallo cos'è? Una ricostruzione della realtà che vuole essere coerente, dove c'è una causalità tra gli elementi, no? E la mia idea della letteratura è assolutamente al contrario, cioè proprio di come dire, uno strumento che permette di mostrare l'assurdità della vita, la contraddizione della vita, anche proprio la sua assolutamente incomprensibilità, no? Molto, molto, molto spesso. Quindi assolutamente io non ho in mente i gialli, perché ne leggo molto, molto, molto pochi, no? E per quanto riguarda il resto, oddio, non lo so, perché nel senso ormai c'è uno scrittore, una scatola che accumula libri, no? Perché dietro uno scrittore c'è prima un lettore, no? Nel senso che la molla è sempre quella, no? il piacere del testo, il piacere della lettura, poi a un certo punto si cerca di passare provare a scrivere, ma ormai le stratificazioni sono talmente tante, a dire la verità, gli autori che mi sono piaciuti nei vari periodi, sono quelli a cui sono rimasto fedele, quelli che ho ripreso poi ho riscoperto, a dire la verità ormai è veramente, non so se ti capita, non c'è più una filiazione diretta, anche perché nei primi libri c'è una filiazione, no? Quando si comincia a scrivere di solito si è sotto, come dire, la suggestione di un grande scrittore che ci è piaciuto. In realtà ci si accorge che proprio, come dire, la propria scrittura può valere qualcosa, proprio nella misura in cui si distacca da questo modello che abbiamo in testa, perché se è una cosa originale vale qualche cosa, se no non vale niente. Quindi è una cosa molto molto dolorosa. Tu parlavi dei miei primi racconti, io all'inizio, quando ho cominciato a scrivere, ero sotto la suggestione di Céline da una parte e di dei Parisi e dei Sillabari dall'altra, no? Due scrittori ovviamente molto, molto, molto diversi. Però è stato difficilissimo uscire sia dall'uno, il Parisi che mi influenzava più nei racconti, e Céline nella scrittura più nei testi più lunghi, e quindi il rapporto anche qui, no? L'impostazione filologica cerca sempre di vedere nello scrittore chi c'è dietro, no? Andando, e in realtà il cervello funziona in modi molto molto diversi. Lo scrittore ha in testa un sacco di voci, no? Ha un sacco di voci, noi siamo i figli di tutti quelli che sono venuti prima. Che sono venuti prima, sì, o quelli che non si conoscono direttamente, ma appunto che sono stati inglobati da scrittori che si conoscono e che si amano. E quindi quello che so è che quando si scrive è come aver dietro tutte queste possibilità e queste che si hanno veramente perfettamente io non sono assolutamente né un erudito né una memoria particolarmente grande, non è quello, però lo stesso ho in testa un sacco di voci, e quando lavoro su una frase so che poi la posso far andare un po' più verso il dato scrittore o più verso l'aggettivo mi porta più vicino, e quindi è veramente una, però è, quindi come dire, le influenze ci sono, ma ci sono proprio secondo per secondo, proprio nella scelta lessicale, appunto nelle scelte sintattiche, eccetera. Però non è che sia una filiazione diretta, almeno nel mio caso no. Magari in altri casi sì, può esserci proprio un riconoscimento di un maestro, come dire. Ritorniamo al romanzo e alla storia che tu racconti. Allora, i personaggi di questo romanzo sono dei giovani, ragazzi intorno ai 20-24 anni, tutti lavorano. Una fa alleva trote, Marta, un altro fa il guardaparco, però ecco, come dire, da un lato sono giovani moderni, hanno il fuoristrada, hanno il telefonino, però sono un po' primitivi nelle relazioni, negli affetti. È un romanzo dove, pur trattandosi di un gruppo di amici, c'è una forte carica di violenza. Allora, chi sono i protagonisti di questo romanzo? Beh, prima di tutto non c'è nessun disprezzo per questi ragazzi, nel senso che credo che siamo tutti primitivi, cioè proprio siamo nell'epoca della primitività, no? Nel senso che c'è questo grande avanzamento della tecnica e cose, però dal punto di vista sentimentale siamo proprio degli analfabeti, cioè proprio, cioè dovremmo studiare le regole base del funzionamento della psiche, nessuno ce le insegna, no? A scuola si impara l'italiano, si impara la matematica, non si impara non so come dire, gli errori che si possono fare nei sentimenti, ognuno si barcamina a suo modo. E poi spesso si va dal terapeuta quando si ha una determinata età. Ancora in Italia sta arrivando un po' più lentamente questa cosa, ma ormai no, perché se si ha bisogno di qualche modo di uscirci dai propri problemi bisogna andare da uno specialista, come si va dal meccanico della macchina, no? cioè che ti aiuta, aiuta il tuo figlio, aiuta te nel rapporto col tuo figlio, è così, ma perché? Perché proprio siamo analfabeti noi qui, quindi a dire la verità, che, come dire, gli strati della società più fragili mi sembrano più analfabeti ancora, però a dire la verità mi sembra che questo analfabetismo sia proprio una caratteristica della società in cui viviamo, che è molto superficiale, è molto basata sulle apparenze, è molto poco sui meccanismi profondi della psiche, sui tempi, sul modo di funzionare del nostro essere profondo, no? Quindi, no, per dire che in realtà, e quindi come dici tu, questo di realtà, questo fatto mi ha colpito, questo fatto di cronaca, proprio perché rivelatore di questa povertà, però non credo assolutamente che sia una prerogativa di questi ragazzi qui. Questo è il caso limite, la ragazza che uccide il marito invece di parlarle, di parlare a suo padre, questo siamo in realtà, sì, è un caso un po' limite, però io credo che è un po' una cosa che ci riguarda tutti, cioè non mi interesserebbe questa cosa se non ci vedessi un qualche cosa che in realtà ci riguarda tutti, ma si vedono i ragazzi, basta vederli come si vestono, cioè si vede chiarissimo che poi la vita non è quella, cioè i sentimenti non funzionano così, no? Cioè c'è un tale divario tra il modo di presentarsi e poi la realtà dei sentimenti, che i sentimenti hanno delle leggi ben precise, implacabili, e che sono opposte, sono dei tempi molto molto molto molto diversi. E quindi ecco, quello diciamo, sì, quindi per riassumere, sì, un caso limite di povertà, ma mi sembra, a dire la verità, che sia molto una cosa molto molto purtroppo molto diffusa, e non solo in sacche come possono essere questa di ragazzi, una valle un po' isolata, un po' gente che ha lavorato fin da giovane, quindi che non ha avuto grandi aperture, no? Ecco, la vittima, diciamo, del romanzo, in realtà è vittima, succube appunto di questa ragazza, Katia, molto, molto sottomesso, però dall'altro punto di vista è molto determinato a incastrare i bracconieri, per esempio, quindi questi due aspetti opposti del carattere, che lui di mestiere fa il guardaparco e vorrebbe appunto anche, c'ha un forte l'idea della salvaguardia del territorio. Sì, sì. Beh, perché poi tutto ciò, appunto, la tradizione si dimentica, no? Cioè si fa finta di dimenticarla, perché in realtà la si rimuove, in realtà, come direbbero i psicanalisti, nel senso che poi la storia e la tradizione vivono in noi, no? Non, cioè noi non ne siamo coscienti e possiamo anche vivere con principi completamente diversi, però i tempi della tradizione, cioè, sono molto più lunghi, non è che in una generazione, come dire, si cambi da così a così, e si cambia, però c'è uno zoccolo in noi che assolutamente si aggancia a questa tradizione, e questi miei personaggi sono appunto, sono per certi versi, forse gli aspetti più belli sono legati alla tradizione, ma anche semplicemente a una purezza legata all'età, a un voler cambiare le cose, è una commistione di elementi diversi, credo che c'è un po' in tutti noi. Volevo chiederti dell'ambientazione. Vabbè, tu vivi a Parigi, però le tue storie comunque ruotano intorno al Trentino, o comunque alle montagne in cui evidentemente sei cresciuto, a cui sei legato. Volevo chiederti due cose: uno, quanto, che Trentino viene fuori da questo romanzo, quanto cedi anche indirettamente di così dell'osservatore che periodicamente magari torna a casa ma vive lontano in un'altra realtà culturale, e quanto giudizio critico c'è di questo modo di vivere, comunque per certi versi chiuso, isolato, che è il vivere in montagna? Ma a dire la verità, sì, io vivo da tanti anni perché mia moglie è francese, quindi però vado molto avanti e indietro e lavoro anche molto qua, quindi sono spesso, negli ultimi anni sono anche qua, quindi un piede ce l'ho. Insomma, anche quello è una cosa assolutamente imprevedibile, perché nei miei testi è venuto fuori il Trentino, cioè proprio è l'ultima roba che mi sarei aspettato io stesso, no? In realtà, a parte i racconti iniziali, nei tre romanzi, cioè l'Alto Adige o il Trentino, o comunque un ambiente vagamente alpino, c'è cioè in tutti i testi, perché perché lo si ha nel sangue, perché quello, come dire, viene fuori nella scrittura, vengono fuori le cose che si conoscono, profondamente. Non, cioè, avrei veramente difficoltà a parlare della Francia nei miei testi, magari se lo potrò fare dopo, non so come dire, però anche lì è abbastanza misteriosa la cosa, perché non è una, o comunque non è assolutamente una scelta razionale, una scelta, però sono venute fuori. C'è da dire che mio padre era alpinista, come dire, ci portava sempre in montagna, ecco, insomma, Trento come Bolzano in mezzo alle montagne, non so, quindi, come dire, una conoscenza che passa anche attraverso la lingua, perché noi, come dire, il mondo lo conosciamo attraverso la lingua, è la lingua che ci mostra il mondo, no? Come dire, in realtà il legame è nella lingua, che poi ci sono anche l'attaccamento a un determinato ambiente, no? E nella scrittura è venuto fuori quello, ma devo dire che mi ha stupito, non solo, ma questa cosa che si protrae, io pensavo a un certo momento di darci un taglio, invece no. Cambiare ambientazione in Sicilia, ecco. No. Da quanto tempo lei vive a Parigi? No, da una ventina d'anni più o meno. Ma la cultura francese non è entrata per niente nella sua. Per niente forse no. No, tantissimo, poi anche lì, no, non è la cultura francese, cioè una moglie francese, poi la cultura la si impara con le persone che si conoscono, respira cultura, sì, si respira con la cultura, però la vita funziona sempre con gli amici, no? I paesi diversi così sono sempre degli incontri, no? Degli scambi con delle persone che ci fanno, sì, dopo tanti anni. E quindi in realtà però in me, come in tantissimi altri scrittori, probabilmente l'allontanamento fa bene, questo credo che sia una regola generale, un allontanamento, soprattutto l'Italia, che è molto molto conformista, non lo sappiamo tutti, no? È conformista nei comportamenti, è conformista nel modo di vedersi soprattutto, no? Nel senso che l'autorappresentazione è sempre monolitica, no? È quella che ci fa ridere la televisione, ma è la stessa, e c'è sempre una sola in fondo spiegazione delle cose, e invece andando via ci si rende conto che i modi di vedere possono essere completamente, completamente diversi. Questo io proprio in generale mi sembra che i nomi nella narrativa italiana, proprio anche prendendo tutto il Novecento, che sono come dire le voci veramente veramente grandi, c'è sempre un essere altrove, no? Che può essere un'appartenenza regionale per i siciliani, per dire, o i veneti, no? Comiso e Parise, eccetera, o i magnifici Brancati, però c'è sempre un essere come dire un po' diversi, non so come dire, che può essere di vario registro, no? E perché penso che poi molta narrativa, anche moltissima narrativa recente italiana, io la trovo veramente, ma lo dico con molta non con disprezzo, non è che, però io la trovo veramente molto molto conformista nei temi, anche se si prende, non so, semplicemente gli ultimi premi Strega, io non ci sto dicendo, non so, però per prendere solo anche i nomi, mi sembra molto molto anche le tematiche, cioè per pensare alla svolta che c'è stata nella letteratura americana col 2001, no? E da noi un po' si va avanti con molto un po' una io la trovo un po' una letteratura un po' l'acqua di rosa, da dire la verità. Questo non vuol dire, perché abbiamo dei magnifici scrittori, cioè chiaro che Baricco e Maniti sono dei veri come dire manipolatori della narrazione, sono dei grandissimi scrittori, io li trovo un po' vuoti, cioè non, anche più di un po', come dire, mi sembra che non abbia, che non cioè, abbia più tecnica che non no, con una tecnica magnifica, sono come sì, la Faromeo che sono bellissime e non sono mai andate. è un po' quasi dei taglieri. Sei molto bravi a costruire una confezione. No, a Manetti assolutamente ti inchioda al. Inchioda la pagina, è una cosa veramente, però l'hai chiuso e ne sai come prima, ma non è un sapere cerebrale, è come aver visto, o anche è come un mondo di cartone, non so come dire di qualcosa. Questa è la mia, ma lo dico senza disparare, perché c'è molto su molte sette, no, in tutti gli scrittori italiani, io come dire li considero degli scrittori di serie A, come dire che io la mia sensibilità è completamente diversa, non so come dire, no? E mi sembra proprio, ma veramente se si prendono tutti grossi, oppure c'è un'analisi familiare spesso, come può essere alla con le peggiori intenzioni, no? così che o la Mazzantini, però mi sembra che non sia proprio la letteratura che va al nocciolo delle cose, che dice. La mia idea della letteratura, a dire la verità, è un'altra. Con tutto ciò abbiamo dei scrittori magnifici anche noi, non so come dire, però mi sembra che quella che va, la narrativa che va per la maggiore, sia un po', io la considero un po' leggera, ma non leggera, un po' superficiale anche. Però questo può andare con... I racconti possono essere appunto anche molto, molto efficaci, molto, molto buoni. Molto... Ma ci sono degli scrittori italiani del genere noir, di tutto rispetto. Adesso mi sfugge il nome di quello più... Foyce, no, ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tanti. Lucarelli, Carlotto. Sì. Carlotto, però forse il più letterario è Foyce, anche se più allontanato dal genere, no? E è più andato verso la letteratura alta, sì. È lui. E volevo chiederti, ritornando di nuovo al romanzo, c'è un personaggio che mi sembra domini su tutto, non intendendo un dominio psicologico, ma un personaggio che ha più spazio degli altri. Mi sembra che il personaggio principale del romanzo sia Marta, cioè spesso il narratore cede a lei il punto di vista. Del maiale? Sì. Sì. E cede a lei il punto di vista, ed è quella su cui, diciamo, ci dà più informazioni, tutto sommato, quella che e su cui sappiamo molte più cose della sua biografia, mentre un personaggio come Frank, che agisce molto, però su cui diciamo c'è un'ombra in qualche modo. Cioè, Marta, come mai è così centrale? In realtà le mie storie sono sempre... come dire, quello che si chiama il punto di vista, no? In termini tecnici, è sempre quello del narratore che vede il mondo, cioè contrapposto al romanzo classico, dove è lo scrittore che sa tutto, no? L'autore che sa tutto, che è onnisciente, che ci dice tutto dei vari personaggi. Il mio mondo è sempre visto da un personaggio che guarda il mondo, no? Che guarda se stesso e guarda gli altri, guarda quello che succede, con la propria sensibilità. E anzi, spesso mi succede, che è una cosa molto curiosa, di scrivere i testi alla prima persona. Mi è successo anche in questo caso, no? Io l'ho scritto alla prima persona, dice la ragazza di cui parli, Marta, che racconta la storia, io ho visto questa, e poi la trasformo in una terza persona, che però è una terza persona che si porta dietro un po' della prima persona, no? Perché, perché appunto il punto di vista rimane sempre quello poi del personaggio, quindi non sono io che la vedo, no? Io autore che la vedo, è il personaggio che vede un po', è sempre un artificio letterario come un altro, comunque diciamo che vede il mondo, che vede la storia, proprio perché questo mi allontana da un'oggettività e mi mette di più in una, appunto, come dire, nella specificità della vita psichica di un personaggio in questo mondo che ognuno di noi è un mondo sconosciuto a se stessi, no? Cioè, per molti versi, e mi interessa provare a entrare in questa cosa, in questo universo. Ecco, in questo universo per molti aspetti disperante, tu hai intravisto una speranza di riscatto in questi giovani che hai raccontato, dove comunque la noia, la vita ripetitiva, l'autolesionismo, la violenza sembrano dominare, no? Sembrerebbe un ritratto appunto cupo. Peraltro aggancio subito un'altra domanda: non è un romanzo sul Trentino, chiaramente. Il Trentino è un luogo che tu, è il tuo luogo, come dire, una sorta di luogo dell'anima, per cui è per te è stato naturale raccontare, però certo l'ente del turismo del Trentino non so se finanzierebbe questo romanzo per dire leggetelo e poi venite in vacanza in Trentino, no? Allora, ma l'ente del turismo fa un tipo di letteratura che è, l'ente del turismo per definizione fa della letteratura, no? cioè è una falsifica della realtà in modo molto più grosso del mio, nel senso che, a dire la verità, ma senza scherzi, non so, io ho in mente delle situazioni, perché io sono agronomo e quindi viaggio, vado anche nelle valli secondarie, o, a dire la verità, ci sono dei problemi di alcol giovanile, di droga in Trentino, cioè veramente la visione che abbiamo anche qui è veramente folle, cioè, ma questa senza arrivare alla visione del, come dire, che è chiaro che l'azienda del turismo è il suo proprio mestiere, perché bisogna far venire le persone e quindi bisogna presentare la visione nei suoi aspetti più belli, però anche, non so, anche i giornali è un'altra forma di letteratura, cioè il giornalismo, no? E anche loro, come dire, non so, la droga come è presentata, è stato trovato lo spacciatore, come se fosse l'eccezione, l'ha trovato lo spacciatore, sono stati arrestati, quindi le foto degli spacciatori, però anche quella è una forma di letteratura, perché la realtà è un 60% di ragazzi che fumano, cioè la realtà è veramente molto molto pesante, no? E questa è una quotidianità che è diversa da quella dei giornali, perché i giornali giocano molto, i giornali devono tranquillizzare, no? Come devono fare i telegiornali, come devono mostrare che in realtà noi teniamo tutto sotto controllo, la realtà funziona così, poi ci sono delle eccezioni che vengono, di cui parliamo, no? Ma in realtà, senza voler esagerare, però in realtà mi sembra che il Trentino abbia dei grossissimi problemi, proprio legati a un salto stratosferico che è stato fatto dagli anni 60 a adesso, da una povertà molto culturale molto grossa del mondo contadino, che non è il mondo contadino toscano con la sua magnifica lingua, con la sua cultura, è un mondo estremamente, con delle cose anche molto belle, però è un mondo anche estremamente povero per molti aspetti, anche culturalmente, e l'effetto è stato proprio questo, non è solamente una, sappiamo che questo è in realtà un problema italiano, perché proprio la caratteristica dell'Italia, questo grande boom, no, da partire dagli anni 50, economico, che ha stravolto quella che era l'Italia della pre-guerra, quindi assolutamente non è assolutamente un, basti pensare anche allo stravolgimento del sud, non è assolutamente un qualcosa di specifico questa del Trentino, però mi sembra che sia un dato di fatto drammatico, della verità. Non è che, cioè, ognuno fa il suo mestiere, a me sembra strano appunto che, come dire, che si prenda troppo sul serio l'agenzia del turismo o i giornali della verità. Io credo che anche gli scrittori abbiano da dire, non so come dire, magari ci sarà un po' di, non dico di esagerazione, però a dire la verità io ho in mente varie situazioni, episodi che mi hanno raccontato che sono veramente molto molto pesanti. Quindi io ci andrei veramente calmissimo o anche i fatti di cronaca anche recenti, ma non però ecco, comunque detto tutto ciò, cioè in realtà i miei personaggi non per non scoraggiare i lettori, hanno sempre, io credo che in ognuno di noi c'è un qualcosa di buono e i miei personaggi hanno sempre un qualcosa di puro, che magari è molto tra le righe, non è, però assolutamente non mi interesserebbe dipingere dei personaggi solo negativi, perché non credo che nessuno di noi è così, e neanche questi, anche la ragazza che ha ammazzato, così in realtà anche lei ha una sua purezza, una sua leggerezza, che in realtà sotto un certo punto di vista sono anche un qualche cosa. Come l'hanno accolto in Trentino questo libro? È stato ignorato? Ha suscitato una qualche reazione? I giornali se ne sono occupati bene, non ho per quelle cose, però in generale ho veramente l'impressione, cioè il terzo libro faccio sul Trentino, sono libri, sono tradotti anche all'estero, a dire la verità mi sento un po' come dire di parlare a un muro, ma magari è normale, non lo so, anche quello è un aspetto molto trentino, la paura di confrontarsi, no? di stare zitti, di non, magari poi le idee ci sono, però non sono espresse. Non so se dal pubblico c'è qualche curiosità, qualche domanda, qualche obiezione a quello che avete sentito? Sì, una cosa molto da indurre in disperazione. È una cosa, non so. Sì, lo so che ci sono tanti giovani che sono così. Io sono colpita quando vado, io sono una vecchia signora. E sono colpita quando vado in giro dalla maleducazione di questi giovani. Insomma, però, che sia tutto così nero, spero che non lo sia. Forse abbiamo dato un'idea, non credo effettivamente che sia. Non credo che sia nero, credo che la vita di tutti sia difficile, quello sì, capisco che è una banalità che dico, io credo che il compito della letteratura sia parlare di quello, cioè c'è anche la letteratura umoristica che mi piace molto, non so come dire, però diciamo il che non vuol dire indugiare e come dire gioire delle difficoltà e delle però io credo che se c'è un qualche cosa che ci può insegnare la narrativa adesso è proprio nella profondità, no? Perché ormai diciamo ci sono anche molte altre espressioni d'arte, le immagini, il cinema, non so, io credo che la letteratura resti proprio il suo, la sua specificità, la sua ricchezza stia proprio nell'andare molto più in profondità rispetto alle immagini, molto più, e quello, quindi ognuno di noi, dentro di ognuno di noi ci sono delle cose non bellissime, non cosa, però ecco, non c'è nessun autocompiacimento, non so come dire, non c'è, è più una descrizione dello stato oggettivo delle cose come lo vedo io. Volevo chiederti un'ultima cosa a proposito della letteratura che racconta la realtà andando più in profondità, evitando gli schemi, le facili contrapposizioni, no? Il racconto della realtà italiana di questi ultimi tempi è il racconto incentrato sulla sicurezza. La sicurezza vuol dire questa difficoltà di vivere in una società, chiamiamola multietnica, no? L'arrivo veloce che c'è stato, massiccio di immigrazione, e potrebbe essere un nuovo mondo per la letteratura da raccontare, o dovrebbe essere. Tu che vivi in Francia, dove questo problema invece, come dire, il confronto con l'immigrazione è una cosa un po' più radicata, la letteratura francese se ne è occupato? Cioè, è anche la letteratura oggi in Francia fa i conti con questi problemi? Abbiamo visto tempo fa gli incendi delle banlieue parigine, quindi un problema comunque anche abbastanza vivo, diciamo. Ecco, in Italia mi sembra che il racconto sia monotono, schematico. Sì. Ma nonostante sarà un discorso lunghissimo, ma così in due parole, nonostante la Francia abbia un'immigrazione ormai per quanto riguarda il Maghreb, noi già siamo già digerita. Noi, nonostante non digerita, la terza generazione. Sì. E purtroppo non digerita, cioè gli italiani sono digeriti ormai. Gli italiani, se voi guardate nell'elenco telefonico a Parigi, il 30% delle, anche di più, sono nomi italiani, no? Cioè gli italiani, no, ormai sono assolutamente francesi, cioè dalla seconda generazione assolutamente i francesi al 100% c'è stata un'integrazione, e c'è stato un razzismo enorme già nell'Ottocento, i fatti di Marsiglia, dove sono stati ammazzati degli italiani, questo noi ce lo dimentichiamo, stati ammazzati degli italiani, nel dopoguerra erano ancora insultati, chiamati spaghetti come cosa, con un razzismo che hanno subito i nostri immigrati, che invece sono integrati benissimo. Dove non ha funzionato l'integrazione, dove c'è stato un problema coloniale non risolto, no? La Francia non ha risolto i propri problemi, non ha, come dire, fatto i conti con la propria storia, e questa difficoltà di integrazione è proprio finché i problemi non si risolvono anche simbolicamente, no? Cercando delle ragioni, delle spiegazioni, i problemi rimangono lì. È un dramma, mia moglie insegnante, cioè di ragazzi che sono lì ormai da 50 anni, a terza generazione, che parlano francese ma è malissimo, sembra che siano arrivati ieri, no? E che sono stranamente tagliati fuori. Ma per dirti, comunque la letteratura francese rimane ancora molto bianca, la letteratura, in realtà la Francia è un paese ancora molto ex coloniale, con molto ancora colonialismo, cioè non ci sono in Parlamento, non ci sono neri, non so come dire, e qua in, o anche musulmani, ci sono 4 milioni di musulmani in Francia, cioè sono molto, e la letteratura in realtà rimane molto, adesso forse negli ultimi anni c'è una letteratura delle Antille, per esempio, delle Antille francese, c'è una letteratura del Maghreb, francofona, no? Però in realtà il nocciolo della letteratura rimane ancora una letteratura bianca, che in realtà parla molto poco di queste cose. In realtà è una difficoltà, credo, non solo nostra, che in realtà invece potrebbe essere un tema molto buono. Sì. Quale sarebbe la riflessione che a lei piacerebbe che il lettore ricavasse da questo suo libro? Che è un romanzo d'amore, cioè proprio perché mi fa molto sull'amore. Nel senso che credo che in fronte a questa durezza, e quello che mi interessa, e anche, come dire, e poi anche la, come dire, l'affinità che può venire fuori, che come dire, che può essere svelata tra anche situazioni molto molto diverse dalla nostra e noi, no? C'è un qualcosa di noi nei fatti di cronaca, per quello che i fatti di cronaca ci colpiscono, nel fatto di cronaca c'è un po' di noi, no? Non so come dire, ecco, però mi fa piacere quando si coglie, e spesso i lettori attenti lo colgono, per esempio quello precedente sulla mia famiglia, che era stato giudicato anche quello un libro duro, molto implacabile, e qualcuno l'ha definito, no, ma un libro d'amore, no? Un atto d'amore, ma come diceva Roland Barthes, non c'è romanzo senza amore, no? Cioè, la molla è sempre quella, non so come dire, per cui anche questa cupezza della cui si parla, però bisogna saper leggere anche tra le linee, cioè, la letteratura, è bello della letteratura, è sempre la complessità, è perché c'è una superficie, però c'è vari strati, e cos'è che c'è sotto? E quello che ci interessa è proprio la grande profondità, no? E in fondo c'è anche un sentimento di fratellanza, non so come dire, come dire, siamo tutti esseri umani, poi non siamo poi così diversi anche gli uni dagli altri. Ecco. Senta, e come mai il titolo Sacrificio? Ah, brava, era la domanda che mi ero segnato per primo, è brava. Come mai Sacrificio? Il sacrificio è il titolo, anche lì, no? Il sacrificio come una battuta di spirito, no? Viene fuori e dice, ah sì, è quello, no? Ma non è, magari si sta lì a cercare il titolo adatto per giorni e giorni e non viene niente, no? Poi viene fuori magicamente, no? Come viene fuori la battuta, no? Non è che si dice adesso faccio una bella battuta, la bella battuta ti viene fuori prima ancora che tu te ne rendi conto, no? E così, no? Perché proprio pesca in strati più profondi del nostro essere, no? Sacrificio perché sacrificio della persona che muore, sacrificio di un altro personaggio che ama un ragazzo e non è ricambiata, e quindi e poi sacrificio anche un po' forse di sacrificio di tutti questi ragazzi che come si dice sono sacrificati, no? Sono un po' sacrificati nel senso che tutto sommato che c'hanno la macchina, c'hanno tutto, però non è una vita poi così splendida, no? Però appunto sì, sacrificio anche come atto inerente alla vita, di appunto di prova, di durezza che ci apre a qualche cos'altro, ma magari anche nel senso di purificazione, no? Quindi tutto ciò, i titoli sono sempre, si cerca di, come dire, appunto di cercare la parola, la frase breve che racchiude un po' tutto, diciamo. Anche perché è un termine poco diffuso oggigiorno, è molto interessante. Esattamente, sì, assolutamente, sì. Perché appunto... Perché sacrificarsi per qualcuno assolutamente pochissimo di moda, non so, no. Soprattutto i giovani che vogliono invece avere. I sacrifici, noi ci hanno fatto talmente una testa così, da noi i sacrifici, che ormai questi per altre tre generazioni, i sacrifici perché non ne parlo. Perché ai miei tempi c'era la guerra, sì, no, capito? Basta sacrificio. Però, non è che questo sia un sacrificio inutile generale, ma sacrificio non è mai inutile, perché proprio come atto profondo, come atto è sempre un passare a qualche cosa d'altro, capito? Vabbè, in conclusione comunque io, ecco, non ho detto nulla, abbiamo parlato della storia sulla lingua, ecco, chi anche ha avuto modo di leggere il precedente romanzo Anatomia della battaglia sa come la lingua di Giacomo Sartori sia veramente una lingua letteraria, cioè una lingua molto ricca, una lingua appunto come il titolo stesso Sacrificio, che ha quella carica ricca che ha la lingua letteraria, quindi con più significati, con più possibilità, per cui è un libro scritto con una lingua veramente molto lavorata, una lingua molto tagliente. E anche se la storia appunto può sembrare in superficie una storia dura, però c'è una lingua che cerca di scavare in profondità, e questa è una cosa che Giacomo ha detto che io condivido perfettamente, cioè noi viviamo appunto veramente in un mondo molto superficiale, la lingua è povera, il giornalismo è superficiale, ci raccontano sempre la stessa cosa, ogni giorno ci fanno vedere da un anno il delitto di Perugia e non abbiamo capito nulla di più che non bastasse una sola trasmissione. Sì, sì. A cosa è servito raccontarci quotidianamente, ecco, la letteratura invece ci fa vedere appunto di questi personaggi che dietro in una direzione o in un'altra ci sono le varie possibilità della vita umana. Se qualcuno vuol comprare il libro, ce ne sono qui alcune copie. Giacomo Sartori forse vi fa anche un autografo, grazie, se lo volete. E se non ci sei, ecco un'altra domanda. Io, lei suppongo che sia nativo di Terlago. No, no, di Trento, sì. Ma di Trento, sì. Perché conosco molta gente, io vado spesso a Molveno, sul lago di Molveno. Conosco molta gente di nome Sartori. Ogni seconda persona si chiama Sartori a Molveno. No, no, no, di più io Veneto, Sartori più Veneto di origine. Fiera di Primiero e... Allora, sottolinei questo, che lei parlava prima di cultura del vostro, cultura di questi paesi che in passato erano molto poveri e anche, diciamo, retrogradi culturalmente, in un certo senso, nel senso della tecnologia, del progresso moderno. Poi invece esiste una cultura locale che è bella e sicuramente è apprezzabile anche attraverso, parliamo di lingua, attraverso il vernacolo, attraverso il dialetto. Recentemente mi è capitato, quest'estate sono stato a Modena da Francia, mi è capitato di leggere un testo di poesia, con il testo a fronte in dialetto trentino, io sono trentino quindi parlo e capisco trentino, e il testo è immediatamente tradotto in italiano. Leggendo questo testo in dialetto, no? E poi quello italiano, quello in dialetto mi è sembrato tanto più carico di colore, certo, di folklore, no? Che sì, sì, il testo italiano mi sembrava piano, sì, sì, e così. Quindi anche nel suo testo, forse siccome è anche inteso per il pubblico trentino, non so se l'ha fatto, ma tante volte si mettono in bocca, sì, sì, le parole dialettali dei personaggi che vivono lì, poi con traduzione ovviamente per tutto l'altro pubblico. Sì, sì. Ma lo trovo interessante? Sì, sì, ma come dice lui, in realtà non abbiamo parlato della lingua, ma la lingua per me è il fondo di tutto, perché in realtà quello che mi interessa è anche come lettore, mi piace molto molto la lingua, e proprio il nostro problema è la lingua, l'italiano non è una lingua recentissima, l'italiano italiano, no? Se no erano varie lingue regionali, però questo italiano che abbiamo formato, che esiste da 50 anni con la televisione, l'italiano non esisteva e prima come lingua nazionale in realtà, e quindi è una lingua un po' salva, un po' piatta, no? E quindi spesso la ricchezza si trova proprio riagganciandosi alla propria tradizione regionale, cosa che avevo 20 anni, mi ricordo, in Italia si parlava, tutti parlavano in dialetto nelle varie regioni, in italiano, sì, sì, bene, lo parlavano la gente un po', cioè un po' occulta, era così, mi ricordo, era tutto, se andavi nel Veneto tutti parlavano veneto, e solo persone un po' di studio, insomma, parlavano di italiano bene. Ma non è che questi dialetti siano... I dialetti sono belli. Sì, sì, ma sì, anche recentemente la letteratura lì sta molto... Ci sono molti scrittori legati alla regione che usano molto il dialetto. I veneti, ma anche Foyce, lo sta usando molto col sardo. Si parla l'altro. Sì, sì, sì. In Veneto si parla il veneto. In provincia di Rovigo, confina con il ferrarese, vai da Rovigo, vai di là in provincia di Carrara, tutto cambiato, sì, come sì, fosse un altro popolo. Come se fosse, sì, sì, pazzesco. Milano la aristocrazia parlava il dialetto. Sì, sì, sì, sì, chiaro. E anche a Venezia. Sì, a Venezia, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, possiamo forse chiudere qui la serata. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie.